11.03 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Come ogni martedì mattina siete all'ascolto di Parole Ribelli. E in questa felicissima mattinata, perché è arrivato Toshi, è tornato, quindi siamo assolutamente contentissimi di trovare compagni con cui abbiamo diviso con gioia questi microfoni. E quindi un calorosissimo saluto a tutti e tutte da Eddie. E un saluto anche da Francesca, come sempre saremo qui a tenervi compagnia fino alle 12.45 circa. E in apertura mandiamo subito un saluto ai compagni e alle compagne della C1 occupata, che questa mattina sono sintonizzati dal campus in ascolto durante la loro colazione sociale. Quindi dagli invaders, un saluto a tutti gli invaders. Adesso vi lasciamo ancora un pezzo musicale, poi andiamo a presentarvi la puntata. E nel frattempo al 346-667-3263 è arrivato un sms che ci segnala che ci sono controllori e Civic alla fermata di Corso Einaudi, Corso Galileo Ferraris, direzione del centro. Quindi per chi fosse nei paraggi cisti, e a questo proposito ricordiamo invece anche il numero del telefono fisso, che è 011-249-5669. Allora interrompiamo un attimo questo pezzo musicale perché siamo riuscite a stabilire la linea con Francesca da Firenze. Come dicevano prima i compagni dell'info, a Firenze si è occupata la sede della regione targata PD contro la nuova legge regionale. Pronto, ci senti? tutti, ciao a tutti. Ciao cara, senti, ci vuoi innanzitutto raccontare un po' i motivi di questa risposta forte che come Movimenti Lotta per la Casa state dando, quindi un po' il contenuto di questa legge regionale e un po' la mattinata e il contesto in cui si articola? Sì, allora niente, stamani a livello regionale, a Firenze, a Pisa, a Livorno e in altre città della Toscana stiamo facendo un'azione congiunta contro il PD e la Regione, perché la Regione Toscana sta preparando una nuova legge regionale sulla casa, che è praticamente un'emanazione sul territorio del piano casa del governo Renzi. La Toscana già da anni è un territorio di sperimentazione dal punto di vista della casa, già tutta una serie di provvedimenti che vanno a ledere il diritto alla casa sono stati utilizzati in primis in Toscana e poi ripresi appunto a livello nazionale. E questa nuova legge è una legge che cancella totalmente, completamente, definitivamente ogni possibilità di avere diritto all'abitare, un diritto alla casa, perché da un punto di vista praticamente i criteri di assegnazione delle case popolari diventano così restrittivi e così complessi che praticamente per la maggior parte delle persone sarà impossibile fare un bando per accedere a una casa popolare. Già ora le condizioni che ci sono, i requisiti per fare il bando sono molto specifici. Questa nuova legge praticamente elimina il punteggio per gli sfratti per morosità, elimina il punteggio per sovraffollamento nelle case, cioè praticamente è un modo per far sì dal momento in cui le case popolari in Italia oggi si vendono ai privati invece di ristrutturarle, assegnarle, questo è un modo per diciamo pararsi il culo e far sì che le persone non possano nemmeno farlo il bando, certo, e che poi tenere, loro non si trovino, senza tenere anche conto del fatto che ci sono migliaia, immagino a Torino sicuramente, lo so per certo, immagino anche sul territorio fiorentino e toscano in generale ci sono migliaia di richieste di assegnazione che vengono poi trattate con dei tempi che anche se si fosse idonei ai criteri si aspettano comunque un paio d'anni prima di vedere. Certo. Senza contare che in questo periodo soprattutto la propaganda sia politica che mediatica che viene fatta in televisione, sui giornali, eccetera, parla di abusivi e occupanti che rubano le case alle persone che avrebbero diritto ad avere una casa popolare, quando insomma questa è una bugia, una truffa, perché ci sono migliaia e migliaia di case vuote. Basta vedere il caso di Milano con Aler, è il più eclatante, insomma ci sono 11.000 case vuote e in questo periodo stanno continuando a fare sgomberi eccetera, invece di utilizzare quei soldi che usano per fare gli sgomberi e i soldi che usano per dare privati contributi, affitto eccetera eccetera, potrebbero usarli per ristrutturare le case, ma c'è una precisa volontà ovviamente di non fare questo, perché il comune potrebbe requisire il patrimonio pubblico. Anche qua a Firenze ci sono decine di caserme abbandonate che nel piano regolatore della città sono vendute a supermercati, Esselunga, eccetera eccetera, invece di essere requisite per ristrutturate per gli alloggi popolari. Per cui insomma questa legge diciamo che non ci stupisce, però ovviamente crea dei problemi e insomma noi abbiamo tutta l'intenzione di continuare decisi a contestarla. Bene, quindi stamattina per dare un messaggio chiaro un po' a chi amministra il territorio, avete occupato la sede della regione, giusto? Sì, siamo in attesa di notizie da parte della regione, ne abbiamo chiesto un tavolo di trattativa su questa legge regionale come hanno fatto i compagni a Pisa e a Livorno. A Livorno sono stati ricevuti, ora non so come sta andando la trattativa. Noi niente, siamo in attesa di notizie da questo punto di vista, ovviamente finché non avremo delle assicurazioni non ce ne andremo, anche perché almeno qua a Firenze continuiamo a essere presi in giro, perché noi a luglio, per dire, abbiamo fatto un incontro con l'assessore alla casa Funaro della Giunta Nardella, di cui abbiamo anche la registrazione, tra l'altro oggi metteremo online, di questo incontro, dove lei si assicura che a settembre la Giunta avrebbe approvato una delibera per garantire delle residenze fittizie nei quartieri per per gli occupanti di case, quindi insomma, diciamo, per aggirare in qualche modo l'articolo 5, e da settembre si stanno prendendo per il culo, continuano a far finta di niente, continuano a rimandare l'approvazione di questa delibera, tanto che la settimana scorsa abbiamo fatto la conferenza stampa denunciando questa cosa, e è uscito il giorno dopo la dichiarazione dell'assessore che dice di non averci mai incontrato e che tutto ce lo siamo inventato. Noi oggi pubblicheremo la registrazione di questo incontro, perché insomma siamo abbastanza stanchi di essere presi in giro in questo modo, perché qua si gioca la vita delle persone, insomma. Beh sì, quindi insomma, diciamo che dopo un po' l'attacco frontale del piano casa a livello nazionale, sembra che adesso un po' la patata bollente e l'applicazione stia passando a livello regionale, che quindi probabilmente questo processo lo vedremo poi anche in atto in altre regioni, e ci sarà quindi anche insomma da spostare anche il piano della pressione anche appunto verso le istituzioni regionali, da quanto sì, ci stai dicendo. Infatti in tutta Italia mi sembra che un po' questo stia succedendo, e da qualche parte sta riuscendo pure ad avere delle vittorie, per cui insomma noi continuiamo a stare qua finché non abbiamo delle risposte, questa volta per davvero, perché appunto siamo un po' stancati di essere presi in giro. Va bene, sì, insomma sentiamo voci concitate da sotto, quindi non possiamo che augurarvi un buon proseguo dell'iniziativa, ovviamente con l'augurio che si risolva insomma con una vittoria o comunque con delle garanzie serie da parte dell'amministrazione. Se ci fossero aggiornamenti ovviamente non esitate a richiamarci, vi diamo spazio volentieri in questa mattinata, e niente, un saluto a tutti e tutte. Ciao. Buona lotta. Grazie, ciao ciao. Ebbene, allora già abbiamo appunto riempito con degli argomenti sostanziosi sicuramente l'inizio di questa trasmissione. Allora ci eravamo interrotti su un po' di musica e allora continuiamo. Yeah. bring to the rhythm with my friend. On the mic, my brain, you know, the rhythm with my friend. None of my mind's popping, I can't let go. None of my rhythm with my head. I don't wanna live in one listen. You go by my name, pop it, and pop it for your purpose. But then, now I got a man to Oh, this pressure's gonna drop on you. Pressure's gonna drop on you. 11:24, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli. Abbiamo insomma aperto con questa diretta da Firenze che non erano riusciti a realizzare con l'info, che insomma andava anche un po' oltre le tematiche di cui ci occupiamo di solito, ma che abbiamo insomma riferito con piacere. Vediamo se ci saranno aggiornamenti nel corso della mattinata. Nel frattempo invece ci mandano un altro cissi per quanto riguarda gli sfortunati avventori dei mezzi pubblici torinesi. Qualora foste sul 3 in direzione Rondò della Forca, fate attenzione perché ci sono controllori alla fermata di via Guastalla, quindi cisti. Qualcuno suggerisce che dalle finestre dell'Asca prenderanno provvedimenti per invitarli ad andarsene. E niente, questo insomma è quanto per la parte più di cazzeggio. Invece adesso andiamo a presentarvi la puntata di oggi, gli argomenti che avevamo in programma. Ci metteremo in collegamento con alcuni studenti delle scuole superiori di Roma che dalla settimana scorsa hanno iniziato una serie di occupazioni che stanno continuando un po' a ondata anche in questi giorni. L'ultimo in ordine di tempo è stato il liceo Virgilio nella giornata di ieri. Andremo a sentire appunto una studentessa del Virgilio per farci raccontare un po' come sta andando e soprattutto anche quali sono le prospettive per i prossimi giorni. Poi andremo ovviamente a un po' ricollegandoci alla diretta che abbiamo fatto in apertura, quindi a dei temi anche che trascendono e vanno oltre, ma sicuramente comprendono l'ambito della formazione, sicuramente uno sguardo verso il 12 dicembre, lo sciopero generale. E per quanto riguarda invece il piano più internazionale, di cui però ci siamo occupati nelle scorse puntate, andremo a dare nuovamente qualche aggiornamento dal Messico sulla mobilitazione per i 43 studenti scomparsi. Vi faremo sentire un pezzo di un'intervista molto lunga che è stata pubblicata ieri sul sito di un'altra radio di Movimento, in cui appunto ripercorrono un po' gli ultimi sviluppi di questa vicenda e soprattutto della mobilitazione che ne è seguita. E forse riusciamo anche a metterci in collegamento con dei compagni invece inglesi per farci raccontare un po' di quanto era accaduto alcuni giorni fa con il corteo che c'era stato a Londra, che era arrivato fin sotto il Parlamento contro appunto l'innalzamento delle tasse universitarie. E questo è più o meno quanto. Come sempre daremo poi qualche appuntamento. No, se rimane tempo, non siamo riuscite per oggi a stabilire un collegamento con Gabriella Coleman, antropologa statunitense, che però appunto ha appena dato alle stampe un po' la summa dei suoi studi negli ultimi anni su Anonymous. Allora, sicuramente con la trasmissione abbiamo sempre anche toccato molto questi temi e ci eravamo un po' lasciati anche con queste riflessioni, con l'ultima intervista al collettivo Ippolita che aveva pubblicato per la terza La rete è libera e democratica, falso, nella collana Idola. Ecco, è uscito questo libro appunto di questa autrice Gabriella Coleman, molto giovane, molto, molto interessante sicuramente la sua analisi, ma anche i materiali che va a raccogliere. Se avanzerà tempo, due parole su questo testo, sicuramente in attesa, nella speranza di riuscire a condividere con voi poi un'intervista all'autrice. Ecco, due parole sicuramente le faremo se ci avanza tempo. E allora, prima di addentrarci in questa puntata, vi lasciamo ancora un po' di musica, poi iniziamo con i primi approfondimenti. When I fall in love, it will be forever, 'cause I'll never ever fall in love again. When I fall in love, there will be no other, only you and me in this whole wide world. If I should fall in love again, to me it would be a pleasure, if it don't take all my pleasures away. When I fall in love, there will be no other. I'll never ever fall in love again. Thank you.

Allora, 11:36 per chi lo chiedeva poco fa via SMS, ricordiamo che siete all'ascolto di Parole Ribelli, la trasmissione del collettivo universitario autonomo, quindi rispondiamo all'ascoltatore o ascoltatrice che chiedeva delucidazioni al 346-667-3263. E adesso, prima di iniziare con le dirette, andiamo insomma a fare un breve commento su quanto accaduto ieri mattina, quando quella della nuova Aula Magna, la Cavallerizza Reale, si è tenuta la consueta cerimonia dell'anno accademico. Insomma, sulla cronaca credo che si possa un po' sorvolare. Ieri mattina, tra l'altro, abbiamo anche fatto una diretta su queste frequenze, quindi insomma quel che è successo più o meno è noto. Ogni anno insomma ci ritroviamo a sorbirci queste cerimonie senza senso. Quest'anno la militarizzazione che l'ha accompagnata è stata particolarmente impressionante, perché credo chiunque si sia trovato a passare tra Via Verdi, Piazza Castello e Via Rossini ieri mattina avrà notato che insomma era stata creata una sorta di zona rossa attorno alla Cavallerizza. Quindi questo è un po' lo scenario che ci siamo trovati di fronte. Però insomma interessante anche dare un po' a commentare appunto l'accaduto, anche alla luce del fatto che appunto questa era la prima inaugurazione dell'anno accademico a presidenza del rettore Ajani, che si è insediato l'anno scorso e che rispetto al suo predecessore Pellizzetti insomma aveva tentato un po' di farsi portatore di questa ventata di novità, che insomma era stato anche eletto con l'appoggio non trascurabile di tutta una serie di figure dell'università che negli anni scorsi insomma erano anche entrate un po' in rotta con l'amministrazione del rettore, quindi di tutta una serie di ricercatori e precari che però già a distanza di qualche mese adesso insomma hanno avuto un po' da ridire col rettore. E invece appunto a dispetto di questo messaggio iniziale, ci sembra un po' che la giornata di ieri abbia confermato una sostanziale continuità nel modo di gestire l'università. Tra l'altro insomma fa anche un po' ridere che ieri Ajani avesse chiesto ai docenti di interrompere per tutta la mattinata le lezioni per poter forse nella sua idea assistere a questo grande momento dell'inaugurazione. Peccato che poi ci fossero solo porte chiuse in faccia, che insomma la possibilità di entrare fosse stata chiusa ormai da decine di giorni, e che dentro sostanzialmente ci fossero solo il rettore, i suoi amici baroni e qualche altro collega delle università italiane, come insomma il rettore dell'Università di Bergamo, oltre che presidente della CRUI, che ieri appunto teneva questa lectio magistralis dentro l'aula della Cavallerizza. Sì, ovviamente come diceva Francesca, questo rito viene celebrato ogni anno, è la solita pantomima in cui la governance tendenzialmente si autocelebra, perché poi non c'è nulla dell'università da celebrare fuori da queste cariche. e quest'anno appunto un po' più fastidiosa ancora questo teatrino, perché è costato ben più di 6 milioni di euro. Allora, sappiamo benissimo che il ruolo che l'università ha nelle trasformazioni del territorio è di fatto sostanziale, nonostante essa continui a tendere a rimuovere non solo il proprio ma quello anche dell'amministrazione di ruolo e di responsabilità. Infatti l'amministrazione, dando all'università la cavallerizza, così dà un colpo di spugna sulla propria immagine, perché offusca completamente il fatto che il resto della cavallerizza è completamente in vendita. L'università, dal canto suo, sta in silenzio, un silenzio che risulta a questo punto sempre più colpevole, perché le politiche universitarie stanno rispecchiando perfettamente quelle sul territorio. L'abbiamo detto anche, diciamo, un po' avvicinandoci a questo evento, riflettendo un po' su questo rapporto tra università e territorio. Sicuramente ne abbiamo parlato tantissimo rispetto al campus, che appunto anche nell'immaginario creato attorno dal collettivo Campus Invaders, comunque appunto dell'astronave che planava su Torino, di fatto gioca un po' con questa, sia con la quotidianità alienante che la struttura suggerisce, sia sull'alienità effettivamente di questa struttura rispetto al territorio. Ecco allora che l'università, come la città, traccia un suo centro fatto di posti belli e di pregio, come può essere la cavalleria, funzionali, architettonicamente prestigiosi, come può essere il progetto del campus in collaborazione con Foster, piuttosto che e lascia ai margini, nelle sue periferie, tutte quelle che sono poi le problematiche degli studenti. Quindi il messaggio di ieri da parte del rettore è stato chiaro: non c'è posto per i vostri problemi, non sono queste le priorità. Però altrettanto chiaro crediamo sia stato quello degli studenti, che invece ancora una volta hanno fatto sì che non avessero parola indisturbati e non si raccontassero la solita favoletta, senza che nessuno mettesse in dubbio. Sì, tra l'altro fa anche, insomma, un po' specie che leggendo poi sui giornali una breve cronaca anche di quanto era accaduto all'interno dell'Aula Magna, il fatto che nel suo discorso il rettore abbia detto che Torino ancora non può dirsi una città universitaria, che invece è stato un po' il leitmotiv anche dell'amministrazione comunale in questi ultimi anni, e ha riconosciuto il fatto che una serie di facoltà abbiano ancora dei seri problemi in termini di spazi, di disponibilità di aule, eccetera, che era esattamente uno dei discorsi che ieri stavamo portando durante la contestazione, ma che evidentemente erano, insomma, troppo offensivi per le orecchie del rettore, che ha pensato bene di barricarsi dentro l'Aula Magna, quando appunto una delle rivendicazioni che veniva fatta è che quel nuovo spazio costato svariati milioni di euro non venga destinato solo a qualche festicciolo ogni tanto, a qualche cerimonia imbellettata, ma possa essere usata per le esigenze quotidiane dell'Università di Torino, quindi ad esempio per tenere delle lezioni di quei corsi in cui la gente è costretta a stare seduta per terra, o anche semplicemente come aula studio. Comunque, insomma, nelle prossime settimane magari ci sarà modo di chiedere conto ad Aiani di quanto accaduto ieri, e vedremo un po' come si evolverà la situazione. Noi adesso vi lasciamo a un po' di musica, poi ci spostiamo agli approfondimenti sull'estero. Ok, io qui ci sono e tu ci sei, e quante volte me ne andrei, ma sempre qua poi io ritornerei. Se tante volte ho fatto tardi e tu ti perdi negli sguardi, ok, provavo a portarti dentro ai sogni miei. E quante volte scapperei da questo posto, non guardare indietro mai, tu già lo sai che il mondo è nostro. Capire a cosa sei disposto, lottare in questo mare qui, lottare per cambiare ad ogni costo. Sì, io porto con me tutte le strade che ho inseguito, contro il vento, contro il tempo, e corro fino a che non è finito. E qui non vince né il campione né il bandito, ma chi vive i propri sogni e sa indicarli con un dito. Accendo il fuoco dove il fuoco non c'è stava prima, mondo maledetto, solo amore come benzina. E nelle fiamme che verranno, i falsi bruceranno, ma gli altri saliranno per restare in cima. Accendo il fuoco dove il fuoco non ci stava prima, mondo maledetto, solo amore come benzina.

questi giorni passano e disegnano un silenzio immenso. Io mezzo su, mezzo immenso, perso nel vortice del tempo e del suo scorrere perverso. So su anche se spesso non c'è verso. Questi giorni passano e disegnano un silenzio immenso. Io mezzo su, mezzo immenso, perso nel vortice del tempo e del suo scorrere perverso. Mezzo su anche se spesso non c'è verso. Questi giorni passano e disegnano un silenzio immenso. Io mezzo su, mezzo immenso, perso nel vortice del tempo e del suo scorrere perverso. So su anche se spesso non c'è verso. Questi giorni passano e disegnano un silenzio immenso. Io mezzo su, mezzo immenso, perso nel vortice del tempo e del suo scorrere perverso. .49 sui 105.250, ricordiamo ancora una volta i contatti 346-6673-263 per scriverci o 011-2495-669 per chiamarci. Come detto in apertura di puntata, continuiamo a seguire un po' le vicende dei normalistas, scusate, degli studenti normalistas, ma più che altro dei loro solidali, perché appunto i 43 purtroppo sono ancora desaparecidos, mentre continua il movimento che un po' diciamo, dicevano anche i compagni che avevamo sentito di Solidaria 43, dicevano che questo accadimento di Ayotzinapa ha un po' innanzitutto messo in luce la non eccezionalità della pratica delle sparizioni forzate, e quindi si è prestata anche ad essere un po' un terreno ricompositivo rispetto alla lotta alla violenza di Stato. Quindi si sono viste scendere in piazza tantissime componenti che hanno appunto tirato in ballo proprio la forza che lo Stato usa continuamente contro i suoi governati, e soprattutto il monopolio di cui vorrebbe rendersi, diciamo, proprietario, perché poi sappiamo perfettamente che gli stessi governi che amministrano con la forza poi non sono disposti ad accettare ribellione e uso della forza a propria volta da chi la subisce. Sì, e rispetto all'intervista di cui vi dicevamo, abbiamo pensato anche per insomma questioni di tempo di rimandare e darvi invece qualche aggiornamento a voce. Comunque l'intervista appunto è molto lunga, la potete trovare sul sito radioalsuolo.org ed è stata realizzata proprio con i ragazzi e le ragazze di Solidaria 43 che avevamo sentito anche noi e che appunto raccontano un po' della giornata di solidarietà internazionale del 20 novembre, su cui avevamo fatto un po' il punto la scorsa settimana. Ci rifacciamo invece ad un altro articolo che è stato pubblicato ieri su euronomade.info, anche qui un articolo molto lungo che tratta una serie di questioni, ma che in chiusura va a dare anche qualche aggiornamento e qualche notizia positiva. Innanzitutto ieri si è tenuta di nuovo una giornata di mobilitazione perché ricorrevano tra l'altro 2 anni esatti dagli scontri del 1° dicembre del 2012, quando si era appena insediato il governo di Peña Nieto tramite brogli elettorali, uso dei media in maniera monopolistica, e quindi ci fu una protesta molto, molto grossa in tutto il paese. E la polizia anche in quell'occasione attuò una repressione violentissima, causando la morte di un manifestante che era stato colpito al volto da un lacrimogeno e mentre un altro aveva perso un occhio. Quindi ieri ricorrevano appunto 2 anni da questa manifestazione ed era stato dato un appuntamento alle 4 del pomeriggio allo Zocalo, che è la stessa piazza della manifestazione del 20 di novembre, e probabilmente l'obiettivo era quello di marciare proprio nuovamente verso il Palazzo Presidenziale. Non abbiamo ancora trovato notizie, insomma, rispetto a questa manifestazione di ieri, anche per ovvie questioni di fuso orario, quindi probabilmente nelle prossime ore uscirà fuori qualcosa. Ci ripromettiamo, insomma, per la prossima settimana, a seconda di come è andata ieri, di magari rifare un collegamento con i ragazzi di Solidaria 43. Le altre notizie invece degli ultimi giorni sono che da un lato vi è stata di nuovo un'aggressione all'interno dell'università dell'UNAM di Ayotzinapa, perché venerdì scorso, il 28 novembre, nel pomeriggio uno studente di filosofia e lettere è stato letteralmente accerchiato subito fuori dal campus universitario da parte di un gruppo di agenti in borghese ed è stato trascinato a forza su un'automobile. È riapparso poi alcune ore dopo con segni evidenti di lesioni e di violenze che aveva subito e con l'accusa di terrorismo appunto per i fatti accaduti durante la giornata del 20 novembre, quando durante la mattinata era stato occupato l'aeroporto di Città del Messico, che poi era stato violentemente sgomberato dalla polizia. Fortunatamente lo studente è stato poi successivamente rilasciato senza accuse a proprio carico, però insomma anche questo clima di intimidazione è abbastanza, insomma, abbastanza esemplificativo, appunto uno studente che viene accerchiato fuori dal campus da agenti in borghese, sequestrato per ore col tentativo appunto di affibbiargli queste accuse. Sempre nella giornata del 20 novembre, appunto durante questa grandissima giornata di mobilitazione, c'erano stati diversi arresti, appunto sia la mattinata all'aeroporto che poi nell'appuntamento sotto il palazzo presidenziale. Fortunatamente è arrivata poi sabato scorso la notizia che tutti gli 11 arrestati di quella giornata sono stati liberati, e tra loro c'era anche uno studente cileno, tale Lawrence Maxwell, che è molto noto perché insomma per la sua lunga militanza nel movimento studentesco nel periodo di Pinochet durante gli anni 80, insomma il fatto che fosse molto conosciuto aveva causato forti rimostranze, anche diversi appelli internazionali alla sua liberazione. Appunto la notizia è che sono stati tutti rilasciati, quindi questa appunto una notizia positiva che ci arriva negli ultimi giorni dal Messico. Nei prossimi giorni, tra l'altro, la componente studentesca universitaria continuerà, insomma, a rafforzare un po' i suoi rapporti con altre realtà di lotte messicane. Ci saranno dei tentativi, insomma, di dialogo col Congresso Nazionale Indigeno e quindi con le ZLN, anche che nei giorni scorsi aveva insomma già preso pubblicamente posizione su questa vicenda, esprimendo solidarietà alla lotta per appunto per questi 43 normalistas scomparsi. Quindi insomma la situazione è sicuramente in divenire. Ci riproponiamo appunto di informarci su come è andata la manifestazione di ieri pomeriggio, eventualmente poi di darne conto la prossima settimana. Adesso è quasi mezzogiorno, noi tra poco riusciremo quindi a sentire gli studenti di Roma che ci avevano appunto chiesto per esigenze di tempo di chiamarli nell'ultima parte della puntata, quindi tra poco andremo a farci raccontare come sta andando con le occupazioni. Esco fuori quando il vento tira forte, quando sbatte contro la mia porta e spalanca le finestre aperte, soffia dentro le coperte, non sta dalla mia parte, è un circolo vizioso con le braccia aperte. Ho altre cose per la testa che non stai capendo, non ti do molto più di quanto ti stai aspettando. Sto camminando mentre sto lasciando tutto dietro, sto scendo per vedere meglio i tuoi occhi di vetro. Un altro metro arrivo, pochi secondi e scrivo le ultime due righe sulla merda che respiro in giro. Porto il velo con i member fuori dall'hi-fi, sopra al palco pompa forte, cazzo, non te live. Io resto a prova ad ogni tempo, ascolto i tuoi discorsi, ma sono più le cose che non sento, stronzi. Non ci tengo a stare dentro i vostri cuori, porto solo un motivo per sentirmi quando esco fuori. Fuori ora, fuori per chi ci crede ancora. Fuori ora, per chi ha tenuto duro sin da allora. Fuori ora, per chi continua a mettersi alla prova, per chi questa è una droga, per chi non abbandona. Fuori ora, per chi ci crede ancora. Fuori ora, per chi ha tenuto duro sin da allora. Fuori ora, per chi continua a mettersi alla prova, per chi questa è una droga, per chi non abbandona. Come cani sciolti pronti ad azzannare, strappano guinzagli se le stringo perché c'hanno troppa fame. Rime che guardano la scena con occhi da cannibali, perché l'ora di cena è giusto che io le liberi. Fuori ora, circolo vizioso, terapia, la mia musica è la cura e la mia malattia. La mia voce va da sola nella cassa spia, si fa sentire esplode sulle mine del mio DJ. Per le mie sorelline, per i miei fratellini, per chi vuole le mie rime, ho mille storie senza fine e fili, tesi sui burattini, apriamo le tendine sulle prime file, inizia lo show per bambini. Scene da circo nel mio circolo vizioso, rimango in bilico su un filo teso e tremo dal nervoso. Lancio testi a peso morto su una folla elastica, taglio corta le tue storie fatte in plastica. Fuori ora, per chi ci crede ancora. Fuori ora, per chi ha tenuto duro sin da allora. Fuori ora, per chi continua a mettersi alla prova, per chi questa è una droga, per chi non

tutto e poi spero di potermi innamorare del principe, portare la mia principessa sull'altare, di darmi un figlio che sappia che tu con me non fotti, che abbia la mia luce che brilla dentro ai suoi occhi. Ma se muoio in questo istante è perché ho il cuore grande, che per farlo battere non basta tutto il vostro sangue. È il giorno del mio funerale, voglio una festa con DJ che se legge non credo più questo pezzo in scaletta. E se mi ha amato fino in fondo, non ti prego parlami perché ti ascolto, anche se non rispondo so che non ho la facoltà di compiere i miracoli. Sarò solo il tuo angelo e combatterò i tuoi diavoli. Ne la mia memoria impressa a poco, i vostri volti faranno sempre parte della mia storia e dei miei ricordi. Incido il mio presente perché viva nel futuro Paolito, attraverso ogni grammo dei suoi fanculo. Ancora quanti beat, quanti street, quante rime, quanti amici veri, quanti amici falsi e quante signorine, quanti giorni, quante notti, quante stelle, quante stati, quanti sogni infranti, quanti realizzati, quanti odori, quanti sapori, quante vite incroci, se apri gli occhi vivi e ti fa un giro fuori, quanti sorrisi, quanti pianti, quanta fiducia, quanti inganni, quanto valgono 21 grammi. E allora, dopo questi 21 grammi vecchi a scuola, vi diamo un paio di comunicazioni prima di entrare in collegamento con gli studenti romani che ci danno uno scorcio sulla buona scuola, quella che si ribella. È appena arrivato un SMS che ci comunica che l'udienza del maxi processo Notave è appena terminata e che la prossima si terrà il 9 dicembre alle ore 9, sempre in aula bunker, quindi insomma vedremo, ormai il processo sta arrivando verso le ultime battute, quindi insomma vedremo un po' cosa capiterà nelle prossime udienze. E allora diamo una notizia che ci è stata data da un ascoltatore che ha chiamato, è una notizia in qualche modo un po' controversa di cui in realtà non sappiamo tanto, che però diciamo non per fare informazioni di bassa qualità quanto per rilevanza effettiva di quello che accade pensiamo valga la pena dare, perché crediamo sia importantissimo in questo momento aprire un dibattito un po' su questi temi. Quindi cosa è successo? Sostanzialmente possiamo salutare delle nuove occupazioni abitative a Vallette, nuove occupazioni abitative, case prese, case popolari che non sono state assegnate, prese da famiglie che erano state sfrattate. Ora, queste case popolari erano le case, diciamo, che il comune voleva destinare ai Rom. Sappiamo per, diciamo, da gente un po' di quartiere, il compagno che ci chiamava e ci dava questa notizia ci diceva che quasi con certezza ci sia dietro fondamentalmente un volto noto della destra torinese, ovvero Marrone, e che di fatto queste occupazioni siano appoggiate da quello strato là che abbiamo visto anche sabato per esempio in Via Artom, sta cercando un po' di raccogliere la rabbia dei quartieri. Ora a noi non interessa diciamo chi ha spinto, da dove si è arrivato il suggerimento di occupare, pensiamo che occupare delle case popolari sfitte sia sempre e comunque giusto. Pensiamo anche però che purtroppo lo sciacallaggio politico diciamo di tante figure, di queste in particolare, non ha fine, e che quindi su bisogni reali probabilmente a Vallette si vedranno fascisti che verranno a batter cassa politica su quella che è la situazione di effettiva, diciamo, mala gestione delle istituzioni di questi territori, mala gestione colpevole. Ecco, allora ci tenevamo comunque a dare questa notizia perché sicuramente è importante tenere insieme i pezzi di questo dibattito, che ovviamente diciamo passa un po' per Tor Sapienza, passa per un po' tutte le periferie delle nostre città, in cui sicuramente appunto la rabbia è alta e sta a noi far sì che non cada un po' diciamo appunto nei tornaconti piccoli e beceri di fascistoidi o parlamentisti vari. E quindi appunto sicuramente seguiremo la vicenda e continueremo a dare informazioni dalle libere frequenze di Radio Blackout, non solo Parole Ribelli, sicuramente anche Info GR e le varie altre trasmissioni si occuperanno di avere sempre un occhio aperto sul territorio. Intanto dai nostri, diciamo, nel tempo che ci è dato come trasmissione del collettivo universitario autonomo, invitiamo tutti e tutte i compagni e le compagne all'ascolto a tenere gli occhi aperti su Vallette per quando appunto verranno probabilmente questi fascistoidi a batter cassa. Allora, che lì si rimandi da dove sono venuti, dalle nelle fogne. E niente, allora adesso vi lasciamo ancora un pezzo musicale e andiamo a metterci in collegamento con gli studenti medi romani. No, rettifica, arriva un SMS, quindi andiamo a leggerlo. Ci scrivono: non sono case, uno schifoso dormitorio che il comune aveva chiuso e doveva dare per l'housing sociale per i rom. Ciao, cla. Ok, allora appunto ci danno informazioni più dettagliate. Bene, Radio Blackout si rivela sempre un mezzo efficace. Chiunque abbia appunto anche una panoramica un po' di più su quello che accade si metta in contatto con noi. Ripetiamo ancora una volta: 011 24 95 669 per chiamarci, 346 66 73 263 per scriverci. E 13, torniamo allora in onda con Parole Ribelli. Come vi annunciavamo pochi minuti fa, abbiamo a questi microfoni Gabriele del liceo Virgilio di Roma, che intanto salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Ciao Gabriele, ci senti? Sì. Ok, un saluto. Allora, con te vorremmo un po' fare il punto sulla situazione delle occupazioni delle scuole a Roma, che sta andando avanti, insomma, ormai da diversi giorni con una modalità un po' ondata. Avevamo già letto di diverse occupazioni nei giorni scorsi. Voi siete stati gli ultimi, appunto, in ordine di tempo a iniziare l'occupazione nella giornata di ieri, quindi ti chiederei innanzitutto di, appunto, raccontarci un po' qual è la situazione. Allora, la situazione per quanto riguarda la scuola, ieri è stata una grande partecipazione nel momento in cui si è deciso di muoversi in questo modo, è stata una decisione presa da parte di tutti gli studenti, o comunque dalla maggioranza, che ha deciso di appoggiarsi all'onda di occupazioni che appunto si sviluppava in tutta Roma. È stato un percorso andato, come dicevi, è iniziato prima dalle scuole del primo municipio, del terzo municipio, e si è allargato poi a tutte le scuole, comunque attraverso sempre un'assemblea che legava tutte le occupazioni. E nelle altre scuole la situazione è abbastanza buona, cioè c'è molta partecipazione, gli studenti sono molto interessati alla loro vita, alla loro politica. E soltanto da registrare, diciamo, un atto di sfogo deprovevole da parte di un gruppo di fascisti che ha aggredito ieri un compagno del liceo del Tasso, e quindi al quale noi diamo la nostra solidarietà. Beh, sì, assolutamente. Non sapevamo di questo episodio, ma anzi, grazie per avercelo riferito. Ci facciamo assolutamente eco della vostra solidarietà a questa compagna del Tasso. Senti, queste occupazioni, insomma, si inseriscono ovviamente in tutta la mobilitazione autunnale contro la buona scuola di Renzi. Tra l'altro, proprio in queste settimane si andavano concludendo queste fantomatiche consultazioni con cui il Premier aveva appunto cercato di dare un contorno così di partecipazione, di democraticità e questa ennesima proposta di riforma, però insomma poi sappiamo bene che anche ogni scuola ha le sue specificità, le sue esigenze, che poi fanno anche un po' da grimaldello verso la scelta dell'occupazione. Quindi ti chiederei magari di raccontarci appunto un po' come sta andando al Virgilio, anche un po' quali sono le questioni che avete portato insomma dentro l'occupazione, al di là appunto insomma della questione più nazionale e generale della buona scuola di Renzi. I punti cardine di tutto il movimento romano sono stati appunto il contrasto alla buona scuola di Renzi, e è fondamentale, abbiamo ribadito in tutto l'autunno, che le consultazioni per noi iniziavano il 15 novembre, esattamente quando si andavano a chiudere le loro consultazioni, perché noi non le riteniamo delle reali consultazioni che hanno toccato i punti veramente cardini per gli studenti. Noi riteniamo che la scuola è altro, la scuola non è un test a crocette su internet, la scuola è fatta di individui, non si può esaminare una vastità così grande di studenti attraverso appunto un test a crocette. Questo è un punto fondamentale, e anche un altro punto fondamentale è il contrasto alla nuova riforma del lavoro. Noi, questo è per noi appunto un punto fondamentale. Il movimento è nato, diciamo, tutto per arrivare poi alla giornata del 9 dicembre, quando si voterà al Senato il Jobs Act, e quindi per noi è fondamentale. Questo è stato il motivo per il quale tutte le scuole di Roma si sono mobilitate, e tutte appunto unite da una assemblea. Ok, senti, nei giorni scorsi avevamo letto questa notizia, più che altro queste dichiarazioni di una serie di presidi della provincia di Napoli che si erano scagliati contro la scelta delle occupazioni, definendole appunto cellule criminali, seguiti poi a ruota da questo assessore regionale del PD che insomma l'aveva chiusa in maniera drastica, dicendo: se le famiglie capiscono solo le bocciature, allora bocciamo tutti quelli che stanno occupando, così colpiamo i collettivi, risolviamo il problema. Questo, vabbè, insomma, al di là del fatto che rappresenta comunque un attacco abbastanza esplicito alle esperienze di questi giorni, mi sembra che segua anche un po' quello che è uno dei punti della buona scuola, quindi l'accentrarsi di potere nelle mani del preside, che diventa un po' uno sceriffo, e che quindi appunto queste dichiarazioni vadano anche un po' lette in questo senso. Sì, noi abbiamo letto, siamo arrivati anche molto colpiti da quello delle dichiarazioni, anche perché noi facciamo parte del collettivo organizzato del Virgilio, che si è sempre mosso con pratiche affini a quella che abbiamo portato avanti quest'anno, e per noi sentire queste parole rispecchiano esattamente quello che sta succedendo anche nella nostra scuola. I presidi non soltanto di Napoli ma anche qui a Roma si muovono in maniera mirata per colpire tutto quello che si possa creare all'interno delle scuole. Questo per noi è qualcosa di più sbagliato, non può esistere, perché il colpire un nucleo di persone che si interessa alla politica, che si interessa alla vita, penso sia la più sbagliata che ci possa essere. E la risposta da parte nostra è che noi non faremo un passo indietro, perché sarà sempre la nostra passione contro la loro repressione, e quindi saremo sempre un passo avanti. Beh, assolutamente, diciamo, c'è poco da aggiungere a quello che hai detto. Sicuramente noi continueremo a seguire le vostre vicende, e sicuramente appunto la partita non è finita, perché è tutta in corso, e non si può far altro che continuare a vedere come, a valorizzare assolutamente esperienze dal basso come quella che state vivendo voi a scuola. Ti volevo solo fare un'ultima domanda, magari quali sono un po' le attività che state facendo, come si sta strutturando un po' questa occupazione. Insomma, noi non siamo, immaginiamo, noi non siamo più al liceo da un po', abbiamo occupato anche noi, e sicuramente appunto ci sono cose simili, ovvero ci sono momenti per stare insieme, per toccare argomenti che nei programmi ministeriali magari non rientrano. Ci sono anche tante cose che cambiano, tanti modi nuovi di stare insieme, quindi sicuramente è interessante per chi non entra in una scuola da un po' averne uno sguardo di prima mano e non solo per sentito dire. Oggi c'è un programma con alcuni corsi, appunto in questo momento è in corso un'assemblea, un incontro sul tema della buona scuola. E in questi giorni comunque tratteremo diversi temi, dalla lotta per la casa ai fatti successi a Tor Sapienza, appunto la nascita dei nuovi neofascisti che prendono sempre più piede, e noi diciamo che sia un fatto culturale che deve essere combattuto in ogni maniera. Poi ci saranno anche incontri anche con i compagni della lotta contro la TAV e contro le grandi opere. Questa vediamo i punti cardine di come vogliamo strutturare la nostra occupazione. E fondamentale anche il coordinamento insieme agli Arci Gay, perché riteniamo che questa scuola, in particolare parlo della mia esperienza personale, debba garantire la libertà di espressione, soprattutto alle persone che hanno bisogno, cioè possono sentirsi attaccate al di fuori dagli spazi magari familiari, ma anche lì c'è da parlarne. Quindi stiamo iniziando anche un percorso con l'Arci Gay, e vorremmo alla fine dell'occupazione dichiarare il liceo un presidio fisso dell'Arci Gay. E queste insomma sono le principali attività che si stanno strutturando in questi giorni. Va bene. Molte corsi e incontri. Gabriele, allora vi mandiamo un grosso in bocca al lupo per questa occupazione, speriamo che insomma altri licei e scuole romane vi seguano nei prossimi giorni con queste iniziative. Per adesso appunto buon proseguimento, ci risentiamo presto insomma con aggiornamenti. Grazie, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ebbene, allora sono le 12:22, quindi ci stiamo avviando verso la conclusione della puntata. Vi lasciamo ancora un pezzo musicale, poi andiamo insomma a chiudere con gli ultimi argomenti. Io faccio gara con gli altri, in un nuovo ciò che si chiama fare codardi. Quale della fica o delle amiche sono Barbie? Persona digitalizzate e convertite in ologrammi. Fuori dal mio habitat nel mondo solo drammi. Io devo omologarmi, vogliono controllarmi. Schierati con il vitro, schierati con il litio, schierati con il dito e lo scalpo reciso. Schierati con il calco preciso del viso, il sistema diviso. I poveri nei ricchi sono i più. Danno tutti il nuovo Xanax, punti le pare. Noi ci ha fatto una cascata, sono luci mediale. Torno fatto una cascata, sui punti pesane. Tanto la mia casa ora nascato la multimediale. Vengono le pecore nel recinto, spingono per vero quello che ha vinto, pompano il cervello fino a riempirlo. Vengono le pecore nel recinto, spingono per vero quello che ha vinto, pompano il cervello fino a riempirlo. Mi risveglio in salotto, da un calcio il mio schermo spaziale rotto. Dico il mio robot inizia a girare otto. Ogni sogno qua se può andare bene va storto. Però vado a casa del fuccio con teletrasporto. Guerre tra sicari messicani contro i rettiliani. Esperimenti lessicali, architetture verticali. Vogliono farti dimenticare che come ti chiami. Se sbagli con questi cani fai voletti venti piani. Nell'acqua zombie comandati dalle logiche, corri copie, lobby condannati. L'assistenza sanitaria ti manda in coma gratis. A caccia quelli come noi, se ne sono andati. Parlo tra i segnali radio, vai volte nell'armadio. Mafia, ritreno, radio. Si drammi non posso farli aumentare e farli mentare. Come tempo da farti i soldi per farli vennare. Vengono le pecore nel recinto, spingono per vero quello che ho finto. Pompano il cervello fino a riempirlo. Vengono le pecore nel recinto, spingono per vero quello che hai visto, pompano il cervello fino a riempito. E 27 sui 105-250 le libere frequenze di Radio Blackout. Noi andiamo verso la conclusione di puntata e dato che abbiamo ancora un po' di tempo andiamo a parlare un attimino della, appunto, di questa pubblicazione di cui dicevamo in apertura, che si chiama Anonymous Hacker, Oxer, Whistleblower, Spy, The Many Faces of Anonymous, ed edita per Verso. Diamo come riferimenti, un po' per chi fosse curioso su questo argomento, le interviste che Gabriella Coleman ha recentemente rilasciato a Carola Frediani, di cui che abbiamo anche sentito a questi microfoni per una sua pubblicazione sul Deep Web, insomma studiosa italiana di questi temi, e anche sul blog Control Plus, ctrlplus.noblogs.org, blog di un compagno militante che da sempre segue, diciamo, segue un po' l'hacking e anche temi, diciamo, sul web in generale. Quindi, appunto, la Gabriella Coleman in questa sede viene un po' presentata come l'antropologa con la maiuscola per eccellenza di Anonymous, ed effettivamente la sua, il suo studio, cioè i suoi studi, sono effettivamente molto interessanti. Sicuramente è interessante un po' il anche l'innovazione di Anonymous che lei mette in, in rilevanza, a partire prima di tutto dal fatto che Anonymous è, ha una difficoltà nell'essere soprattutto debellato, che cosa che molti governi gradirebbero fare, dal momento in cui non ha avuto come, diciamo, aggregazione il processo che di solito univa i gruppi di hackers, ovvero una conoscenza personale reale, che poi faceva sì che per affinità appunto si sviluppasse poi un gruppo anche informatico. Anonymous invece ha esattamente un processo opposto, nel senso in cui di fatto poi diciamo è una rete capillare che non ha un singolo fulcro, che non ha una, un gruppo diciamo singolo a cui si può ascrivere completamente sia la sua il suo agire, che la sua posizione, che non il suo, i suoi contenuti, e quindi sicuramente questo è diciamo un bel paio di maniche di chi è un bel paio di maniche da affrontare per chi ha sicuramente gli Anons sulla sua lista, sulla sua lista nera. Interessante anche è la loro messa a servizio, diciamo, un po' di queste capacità di un intento sistematico, cosa che non è assolutamente scontata nel mondo dell'hacking, dal momento in cui dal momento in cui di fatto molto spesso parte anche della pratica di lotta stessa è stata il non avere un singolo obiettivo su cui andare, bensì il do it for fun, che era diciamo parte del percorso autonomo che gli hacker mettevano in campo, ovvero una non avere una funzione precisa, bensì godere delle proprie capacità usandole per divertirsi per il più possibile. Ecco, diciamo sicuramente Anonymous con cose come l'Operation Israel, che abbiamo visto recentemente, che tutti quanti abbiamo supportato, con l'Operation Ferguson di quest'estate, con tantissimi dei suoi interventi, gli ormai consueti Tango Down delle varie interfacce dei siti governativi piuttosto che di organi di stampa particolarmente asserviti, o del sindacato di polizia, per esempio, durante la, l'applauso infame dei agli assassini di Aldro. Ecco, abbiamo visto che invece c'è una direzione molto precisa che Anonymous traccia, c'è un immaginario che non è solo quello di V per Vendetta, ma è anche quello proprio della comunicazione col video che annuncia un po' appunto l'operation, che anche come gergo ha invece una questione assolutamente rimanda un po' più a una questione di quasi militare. Assolutamente la questo modo di porsi di Anonymous di fatto, secondo la Coleman, è un miglioramento, soltanto perché non assolutamente non ha scalzato il do it for fun e tutta quella che è stata un po' la prima impronta della, dello spirito non solo di Anon ma anche dell'hacking tutto. Ultima, molto interessante, sicuramente una considerazione rispetto, diciamo, all'aspetto in qualche modo moltitudinario, tra virgolette, di Anonymous che andavamo a sottolineare prima, nel senso in cui certo è che la capillarità di questo fenomeno ne determina una forza, dall'altra si evidenziano anche un po' i suoi limiti, nel senso in cui l'irrappresentabilità precisa in un'identità conchiusa di Anonymous non fa sì che senza identità di fatto non ci sia un'unità organica a cui poi si può ricondurre, da cui poi si può desumere un'organizzazione, ed è difficile condurre, diciamo, condurre la guerra che Anonymous si propone di fare ai grandi poteri senza un'organizzazione molto precisa. Questa, diciamo, un po' più una è sicuramente una considerazione che viene più a noi e che sicuramente appunto condividiamo, che in maniera, cioè che lei, l'autore del blog Control Plus, ha in maniera molto puntuale sottoposto a alla Coleman, che però invece dice comunque la essendo Anonymous prima di tutto una piattaforma che quindi fa convergere di fatto delle forze sociali che altrimenti sarebbero instradate soltanto in percorsi che soggettivano a livello di individualismo e atomizzazione, Anonymous fa un po' il suo fa la sua parte da questo punto di vista, pur tenendo insieme il fatto che lei dice comunque ci sono dei limiti tali per cui congeniti all'agire, ma anche solo sulla piattaforma diciamo informatica, che non fanno di Anonymous quel soggetto che potrà catalizzare o ricomporre lotte contro l'austerità piuttosto che attaccare nodi del capitalismo contemporaneo in termini espliciti come può essere quello di una, come possono essere quelli di una grande mobilitazione, ma sicuramente innanzitutto sta facendo, cioè comunque la ricerca, la pubblicazione di informazioni come possono essere state quelle dei leaks o anche solo, ecco, ricordiamo che il numero di lacrimogeni sparati in Valsusa il 3 luglio lo sappiamo solo grazie ad Anonymous, quindi diciamo i numerosi grazie che non solo come movimento dobbiamo rendere a questa fitta rete stanno anche nel fatto che comunque le informazioni che con le capacità che hanno riescono a reperire effettivamente riescono poi a smuovere anche quelle coscienze civili che si smuovono, che sono un po' più difficili da far tremare. Allora noi continuiamo, appunto rimandiamo a queste due interviste su Control Flu e su L'Espresso a cura di Carola Frediani, come dicevamo prima, cercando di metterci in contatto con la Coleman e tenendo sempre comunque un occhio su questi argomenti che determinano in maniera sempre più ingente tutta la realtà, diciamo, che abbiamo intorno. In lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, time's picking it up. Anyway, he never really talks much, never concerned with status, but still even in starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help, had to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach, and now it all unfolds. Scale up and on, see, this is 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would have thought he'd be the one that set the West in flames? Then I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Why you had the stupidest verses? Dude, it's the truth. Now everybody giving them guest spots. It's not true. I'm already fucking with this guy. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. Call him right. sick and he's spitting fire and Mike got him out the dryer, he's hot, found him in Verona with top, but a fucking nihilist porcupine, he's a prick, he's a cop, the type women wanna be within rappers, hope he gets shot, 8 years in the making, patiently waiting to blow, now the record with Shinoda's taking over the globe, he's got a partner in crime, this shit is equally dope, you won't believe the kind of shit that comes out of this kid's front top. He's not your everyday on the block, he knows how to roll with wood, he's got making his way to the top, he don't think it's a comment on his name, people keep asking him was it, giving that person just a step for an act, but no, he's living proof to the rock in the booth, he'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice, him and his crew are known around as one of the best, dedicated to what they do to get 100%, like, nobody really knows how or why he works so hard, it seems like he's never got time, because he writes every note, he writes every line, and I've seen him at work, when that light goes on in his mind, it's like a design, it's written in his head every time, before he even touches the key, or speaks in a rhyme, and those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous, without even trying, how do they do this, 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name, this is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. Allora, quando sono le 12:39, come sempre in chiusura andiamo a ricordare qualche appuntamento, partiamo quelli dell'aula C1 occupata, visto che oggi i compagni e le compagne di Campus Invaders erano appunto in ascolto durante un'iniziativa, settimana appunto ricca di appuntamenti in quel della C1 occupata, a partire dalla giornata di domani prosegue la rassegna di Cineforum Sociologico appunto all'interno dell'aula autogestita C1, domani verrà proiettato il film Girl Fight del 2000 che tratta il tema della box femminile. E a seguire ci sarà un dibattito con alcuni docenti e studenti del Dipartimento appunto di Sociologia, più in generale di Cultura, Politica e Società, e per concludere poi un aperitivo, insomma, per dare anche spazio alla socialità. Quindi questo per quanto riguarda la giornata di domani, l'appuntamento è alle 18:30 nell'aula C1. Giovedì invece nello stesso posto ci sarà la presentazione dell'ultimo volume di Maurizio Pagliassotti, Sistema Torino, Sistema Italia, sarà appunto presente l'autore che ci racconterà quest'ultimo suo lavoro, e a seguire ci sarà appunto un dibattito, quindi segnatevi l'appuntamento, questo invece di giovedì sarà alle 18. E a seguire Maurizio Pagliassotti sarà per quel consueto appuntamento di Talk Shock Days in Cavallerizza, a continuare questi incontri a metà tra l'informazione e la satira. Questa sera invece, per quanto riguarda la giornata di oggi, confermata la consueta cena all'asilo occupato di Via Alessandria, cena benefit detenuti con suone e danze con lo sciabi marocchino, quindi l'appuntamento appunto è confermato. E arriviamo a venerdì, in quel di Blackout invece continuano le presentazioni dei libri. Sì, alla Blackout House in via Cecchi 21A alle ore 20 apericena Pulp, appunto con il consueto appuntamento di Pulp, la polpa dei libri, alle ore 20 apericena, ore 21 con Kobane e Royava che resiste, proiezione dei documentari YPJ, un giorno in Siria tra le donne curde combattenti, e di Dashengala Kobane, la resistenza del popolo curdo, sempre del 2014. A seguire dibattito con Daniele Pepino a cura del MED, Centro Interculturale Curdo. E in chiusura ci arriva un ultimo cisti, oggi evidentemente controllori sguinzagliati ovunque, ci segnalano controlli a tappeto in metropolitana, quindi sui vagoni chiedono il biglietto, l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ci scrive li aveva visti alla fermata 18 dicembre di Porta Susa, quindi cisti. E noi su questo vi salutiamo, vi diamo come sempre appuntamento a martedì prossimo. Tra pochi minuti ci sarà il GR a seguire Cattivi Pensieri con insomma finalmente ristabilito il duo di Toshi e Simone, quindi siamo contenti di riavere Toshi qua anche in quel di Blackout. Noi vi auguriamo una buona giornata e buon ascolto sui 105.250. Ciao a tutti e tutte, un saluto in particolare ai compagni e le compagne della C1, i Campus Invaders, che oggi sicuramente ci hanno tenuto compagnia molto più di quanto noi abbiamo tenuto a loro. E a martedì prossimo, ciao a tutti e tutte, buon proseguimento da Eddie e Francesca.